Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo di un lavoratore della scrittura, vive nel Maine con la moglie Tabitha. Da più di 30 anni le sue storie sono dei bestseller che hanno venduto 500 milioni di copie in tutto il mondo. Hanno ispirato registi famosi come Stanley Kubrick, Brian De Palma. È uno che non ha paura dei mostri, dei fantasmi. La sua vita però ruota attorno ai mostri e ai fantasmi. Ed ha una particolarità che è esattamente il contrario della mia: non ama il numero 13. Stephen King. Nessuno può conoscere le origini di un talento, però noi possiamo dire che lui ha avuto un'infanzia anomala. Questo potrebbe essere uno dei fattori che in qualche modo lo hanno formato. La nascita è già particolare perché i genitori sono convinti di non poter avere figli. Adottano un bambino che si chiama David, e quando arriva questo bambino, come spesso accade, la situazione si sblocca e questi, Nellie e Donald King, riescono a fare un figlio loro. Così il 21 settembre del 47 nasce lui, il loro piccolo miracolo, che si chiama Stephen King. Quando lui compie 2 anni e il fratello adottivo David ne ha 4, il padre, dopo aver accumulato molti debiti, lascia la famiglia e se ne va. Un po' la classica scena: vado a comprare le sigarette. In un banale pomeriggio del 49, il piccolo Stephen vede uscire suo papà per una passeggiata, però non lo vede più rientrare, non farà più ritorno a casa. La madre prova a cercare il marito in lungo e in largo, ma non lo trova, non ne avrà mai più notizia. Non voglio pensare quanto fosse terribile il marito, ma forse anche quanto fosse terribile una donna dalla quale scappare senza lasciare più notizie. E così i due figli vengono cresciuti da una mamma improvvisamente single. La signora King nei primi anni conduce un'esistenza nomade, fa tutti i lavori possibili. Stephen e il fratello vengono affidati a una zia nel Maine, poi lei li recupera. Dopo 12 mesi si trasferisce con i bambini nel Wisconsin. Vanno nella casa di un'altra zia materna, e quando Steve finalmente mette piede in una classe di prima elementare e pensa di aver messo le radici, tutto ruota ancora nel verso sbagliato, perché dopo pochi giorni di scuola, giusto il tempo di fare amicizia con i nuovi compagni, inizia a stare male. All'inizio è un morbillo, poi le cose peggiorano con cadute e ricadute, fino a quando i medici non capiscono che sono coinvolte orecchie e gola, lo operano alle tonsille e tutto si complica, e per 9 mesi il piccolo Steve deve rimanere a casa. Insomma, il bambino trascorre il primo anno delle elementari a letto o in casa, leggendo tonnellate di fumetti e raccapriccianti storie di animali, libri di Jack London, fino a quando lui stesso non inizierà a scrivere racconti per conto suo, e ha solo 6-7 anni. E in questa infanzia piuttosto stravagante bisogna anche ricordare che, anche se lui nasce nel 47, la televisione in casa sua arriva solo 11 anni dopo, nel 58. E quindi lo scrittore dichiara oggi di essere stato un privilegiato, perché ha imparato a leggere e scrivere prima di imparare a guardare la televisione. Ci rifletterei, insomma, su questo passaggio. E come spesso capita ai personaggi che raccontiamo, l'infanzia, i genitori hanno una grande influenza. Nel caso del re dell'horror abbiamo una madre molto tenace che lo esorta nella sua creatività e che quando lo vede annoiarsi di fronte ai fumetti e gli dice così: perché Steve non scrivi una storia tutta tua? Sono sicura che sapresti fare di meglio rispetto ai fumetti che leggi. Dai, scrivine una tua e sarò felicissima di leggerla. E così Steve scrive il primo racconto, parla di 4 animali magici, la madre glielo paga $1, e quel primo dollaro mi ricorda un po' il primo centesimo di Paverone, perché di dollari, lo vedremo, ne arriveranno veramente tanti. Il secondo anno va in una nuova scuola perché la famiglia si trasferisce di nuovo, questa volta siamo a Stratford nel Connecticut, altro trasloco. Insomma, Steven continua a viaggiare senza radici. Quando arriva a soffiare 11 candeline sulla torta, la madre sa già quale regalo fargli: una meravigliosa macchina da scrivere. Quella macchina perderà per l'usura alla quale il bambino la sottopone la capacità di stampare prima la N, poi la T, poi la E, ma insomma parleremo dopo di questa tranezza. The world is treating me bad, misery. Altro trasloco, si va ad Aram nel Maine perché la madre sta facendo da badante ai suoi vecchi genitori, e nella soffitta di quella vecchia casa degli zii Stephen trova uno scatolone pieno di giornali, di libri del padre che era appassionato di Edgar Allan Poe, di Matheson, insomma libri di fantascienza, di horror, e quello scatolone forse è l'eredità più preziosa che poteva lasciare a Stephen quel padre mai conosciuto praticamente. E il fratello di Steve, quello più grande di 2 anni, comincia a produrre in cantina un piccolo giornale, il Dave's Rag, che distribuisce ai vicini di casa, ai coetanei. Dal 58 al 66 Stephen collabora con quella rivista e pubblica con un suo amico una raccolta di racconti lunghi a puntate. Così il piccolo Stephen a 10 anni invia il suo primo racconto a una rivista. Quello che seguirà sarà ovviamente un rifiuto, ma sarà solo il primo di tanti rifiuti di gente che adesso si sta mordendo le mani. E in quel periodo la vera passione di Steve è il cinema. Ama ovviamente i film horror, lui è solo un tredicenne che vuole vedere i mostri come tanti altri tredicenni, mostri che si mangiano città, cadaveri radioattivi, surfisti divorati dagli squali, insomma gli piacciono i film che fanno paura, in particolare quelli legati alle storie di Edgar Allan Poe come Il Pozzo e il Pendolo del 61, un film di Roger Corman girato già in Technicolor. E adesso potrei visitare la tomba di mia sorella. La tomba? Presumo che abbia una tomba. Non proprio, signor Barnard. È stata sepolta nei sotterranei. E non possiamo andare adesso. Se volete seguirmi. Dopo aver visto il film, lui torna a casa da solo, sto ragazzino decisamente precoce e non impressionabile. Quando sta camminando lungo la strada gli viene in mente un'idea che reputa geniale: trasformare la trama del film in un libro, incurante del concetto di copyright. Appena in casa si mette di fronte alla sua macchina da scrivere, in poche ore lo compone, lo stampa e cerca anche di venderlo a scuola, e in quel periodo frequenta la terza media e comunque un po' di copie riesce a venderle. Passano gli anni e dalle medie lui passa al liceo, alla Lisbon High School, e qui durante il secondo anno diventa direttore editoriale del bollettino scolastico, e peraltro evidenziando un altro lato della sua personalità, quello ironico. Prende in giro i professori, fa ridere i compagni, fino a quando uno degli insegnanti se la prende, lo fa convocare dal preside. Così arriva la mattina fatidica in cui il preside lo chiama per una chiacchierata con il consulente all'orientamento. Siccome è irrequieto, pensano di incanalare in modo costruttivo questa sua grafomania. Gli propongono un lavoro da cronista sportivo in una testata locale. È un colpo d'ala subito, ma che avrà delle ottime ripercussioni, perché lui capisce che questa non è una punizione, anche se non sa nulla di sport, può essere l'inizio di una carriera. È entusiasta, si presenta al colloquio per l'impiego, inizia a fare le cronache sportive, inizia a imparare cosa significa scrivere sul serio, proprio attraverso le revisioni che gli vengono fatte dal suo caporedattore, che è il suo primo editor a tutti gli effetti. Le sue riflessioni sulla scrittura saranno poi al centro di un suo libro, On Writing, edito da Frassinelli. Ormai lontano dagli uffici dell'amministrazione scolastica, feci appello a un minimo di onestà, confessandogli di non saperne granché di sport. È roba che capiscono persino gli ubriachi nei bar, ribatté lui. Se ti applichi, imparerai alla svelta. Mi passò un enorme rotolo di carta gialla sul quale battere i miei pezzi e mi propose una tariffa di 0,5 centesimo a parola. Nessuno si era mai offerto di pagarmi per scrivere. Ma la vita non è facile per nessuno, men che meno per lui, perché scrive, sì, ma deve portare i soldi a casa, perché sua madre è pagata molto poco per sbrigare le pulizie, ha bisogno di soldi. La madre è una donna illuminata, pretende che Steve vada al college come il fratello David, che poi si laureerà con il massimo dei voti. Insomma, le giornate del giovane Stephen King sono molto faticose e spingerei i ragazzi di oggi a ascoltare e a riflettere. Dunque, lui si sveglia alle 7, va a scuola alle 7:30, finisce alle 2 del pomeriggio, inizia a timbrare il cartellino in azienda alle 3, lavora 8 ore, esce dallo stabilimento, torna a casa per mangiare e crollare distrutto a letto. Se avete presente oggi il suo volto, vi ricordate che ha gli occhiali, quindi è molto miope, probabilmente non avrebbe passato gli esami attitudinali per andare in Vietnam, perché in quegli anni si andava anche in Vietnam, però la madre preferisce non fargli correre questo rischio, lo iscrive all'università del Maine e grazie a borse di studio, a dei prestiti, lui può frequentare nel tempo libero, scrive racconti. È faticoso diventare uno scrittore, lui lo sa bene. Durante l'estate del 69 trova un impiego da studente lavoratore alla biblioteca dell'università. Sono gli anni in cui Nixon sta ultimando il suo piano per cercare di uscire dignitosamente dalla guerra in Vietnam, e gli anni degli hippie, dei pantaloni a zampa di elefante, di Martin Luther King, di Jim Morrison, che è ancora vivo, come Hendrix e Lennon. Mentre lavora in biblioteca incontra una ragazza, si chiama Tabitha Sprack, è una ragazza, studia letteratura come lui e si sposano nel giro di un anno e mezzo. Lei è una femminista, viene anche lei da un ceto basso, è una democratica, ama molto la poesia, il linguaggio. Negli anni ha sempre sostenuto Steve anche nei momenti più difficili, quando pensava di non avere una vera e propria vena creativa. E il giorno del matrimonio lui indosserà un abito che gli viene dato in prestito, gli va anche molto largo. I due sposini avranno al dito due fedi di pochissimo valore, forse nessuno dei due credeva che sarebbero stati insieme tutta la vita, cosa che accade tuttora, e forse nessuno dei due credeva che anche dal punto di vista della gestione della casa, diciamo da quello economico, le cose sarebbero cambiate e di molto. Nel 70 e nel 72 arrivano due bambini, Naomi e Joe, con il loro arrivo, e qui bisogna lavorare duro, con paghe modeste, per provvedere alla famiglia. Insomma, Steve continua a lavorare e a studiare come sempre, fino a quando ottiene l'abilitazione all'insegnamento come professore di liceo. Diventa impiegato intanto in una lavanderia, la moglie lavora in un fast food al secondo turno e nel tempo libero lui scrive sempre i suoi racconti. Ogni tanto li manda ai giornali, alle case editrici, qualche racconto viene venduto a pochi dollari, la maggior parte torna indietro, fino a quando qualcosa si muove, gli arriva un assegno da una grande casa editrice per un racconto lungo che si chiama A volte ritornano. E quando finalmente Steve trova un impiego da insegnante di lettere in una città vicina a Hampton, riprende in mano un racconto che aveva cominciato tempo prima. È la storia di una teenager presa di mira dalle compagne, e si chiamerà Carrie. Lo fa con fatica perché è stanco, si sente prosciugato, deve lavorare, deve occuparsi della famiglia, dei bambini, la famiglia è sempre in difficoltà economica. Lui addirittura in un certo momento della sua vita si trasferisce a vivere in un maxi caravan in affitto senza i telefoni. Nel tardo inverno del 1973 traslocammo in un maxi caravan a Hermon, un paesino a ovest di Bangor. Parecchio dopo, in un'intervista a Playboy, definì la cittadina il buco del culo del mondo. I suoi abitanti se la presero, per cui ecco le mie doverose scuse. Al massimo, Hermon corrisponde all'ascella più puzzolente dell'universo. Quindi diciamo un ottimo rapporto con questa cittadina. E intanto il periodo è, abbiamo detto, veramente duro per i coniugi King. Stephen comincia a pensare di non farcela, forse vuole anche mollare, ma la moglie continua a sostenerlo, recupera addirittura dei suoi dattiloscritti e li manda alle case editrici. Ma continua a girare questa Carrie, questo racconto che diventa un romanzo. Lui se n'è dimenticato, le giornate passano uguali, insegna a scuola, cresce i figli e magari il venerdì pomeriggio si ubriaca come milioni di persone insoddisfatte del loro lavoro. Quel giorno mi trovavo in sala insegnanti quando una voce metallica disse: Stephen King desiderato al telefono, è una chiamata urgente da sua moglie. In quel momento sapevo che le cose potevano essere solo due: o il bambino si era rotto una gamba o avevo venduto il mio libro. E si trattava del libro. L'editore di Doubleday mi inviò un telegramma con scritto: congratulazioni, Carrie è ufficialmente un libro Doubleday venduto per $2,500. Il futuro si spalanca di fronte a noi. Tuo Bill. Love, Bill. Wow. Eh sì, il bambino non si è rotto una gamba, è andata molto meglio perché Carrie diventa ufficialmente un romanzo. L'anticipo di $2,500 in quel momento gli sembra un'enormità. Il libro uscirà nella primavera del 74. Lui si compra una Ford, non può ancora smettere di insegnare, almeno fino a quando arriva una seconda notizia, cioè che lo stesso libro viene venduto in edizione tascabile. Questa volta l'assegno non è più di $2,500, ma di 400.000. Le cose cominciano a mettersi veramente bene, la sua vita cambia radicalmente, smette di insegnare, si dedica alla scrittura e intanto al cinema esce anche l'omonimo film Carrie. Gli altri ragazzi credono che io sia strana. Carrie, la tua poesia? Ne hai portata una? Non voglio esserlo, voglio essere normale. Togliti quel sorrisetto dalla faccia. Devo riuscire a stare bene prima che sia troppo tardi. Va nel tuo armadio e prega. No. Prega! No! Mamma! Ho detto prega, ragazzina, prega per il perdono! Se mi concentro, riesco a far muovere le cose. Ci sono altre persone che possono fare quello che faccio io. Sai, il diavolo non muore mai. Continua a tornare, tu devi continuare a ucciderlo. No! La famiglia comincia a star bene, la famiglia King. Nel 74 si trasferisce in Colorado durante una breve fuga romantica in un albergo che era chiuso per l'inverno proprio il giorno in cui loro arrivano e quindi dove si ritrovano soli. Stephen King è lì con la moglie ma visualizza un'idea, un albergo vuoto che potrebbe essere uno scenario ideale per un libro che faccia spaventare. E insomma questo albergo si sta per trasformare in un romanzo che lui chiamerà Shining. Proprio quella notte sogna anche il figlio più piccolo che scappa strillando per i corridoi. Insomma tutta la storia comincia a prendere forma. Il protagonista di Shining sarà un aspirante scrittore, Jack Torrance, un insegnante disoccupato con problemi di alcolismo che accetta il lavoro di guardiano invernale in un enorme hotel isolato in Colorado e va con la moglie e il figlio, e in quei 5 mesi di isolamento Jack, lo sapete, impazzirà. L'inverno qui può essere incredibilmente rigido. Il suo compito quindi è cercare di limitare i danni che ne potrebbero derivare, il deprezzamento conseguente. Beh, se è tutto qui non mi spaventa. E sua moglie e suo figlio saranno contenti, pensa? Entusiasti. L'unica cosa è che si può sentire un forte senso di isolamento durante l'inverno. 5 mesi di pace sono proprio quello che ci vuole. Che cosa prende? Vieni a giocare con noi. C'è qualcun altro qui nell'albergo? Persephone. Ha cercato di strangolare te. Persephone. Papà. Cosa? Tu non faresti mai del male a mia mamma, è vero? Nel 1975 nasce il terzo genito, Owen. Oggi è uno scrittore come il suo fratello maggiore. Sono gli anni in cui lui è già un forte bevitore. E facendo proprio del protagonista di Shining un bevitore, in realtà lui guarda anche a se stesso. Il titolo originale del romanzo era The Sign, preso dalla canzone Instant Karma di John Lennon. Instant Karma's gonna get you. Insomma, quegli anni vedono anche l'alcol arrivare sempre più presente nella vita di Stephen King. Per i primi 12 anni di matrimonio lui ha continuato a dire a se stesso che a lui semplicemente piace bere. Come molti altri scrittori, comincia a dire che bere aiuta a non perdere la vena creativa. E in realtà Stephen King è un alcolizzato. Nell'82 interviene con un suo discorso alla University of Dayton, ha la barba folta, ha i baffi, gli occhiali, la sala è piena, lui fuma tranquillo davanti ai ragazzi, anche quello è un vizio che non riuscirà mai a togliersi del tutto. A volte quando si scrive può essere triste giungere alla conclusione del libro. Per me lo è stato per L'ombra dello scorpione, che è un libro molto lungo. In un certo senso non vorresti finirlo mai e inizi a trovare delle scuse per non scrivere. Se prima scrivevi 3 ore al giorno, passi a 2, a 1.5. E questo succede perché i personaggi sono diventati molto reali e non vuoi lasciarli andare. E diventa inquietante perché a volte si muovono, parlano e fanno cose per conto loro. Robe da matti. It's crazy. In questo periodo di crescente successo, la madre di King muore di cancro e lui comincia ad avere dei problemi di dipendenza seri, non solo dall'alcol, perché arriva anche la droga. E tra l'85 e l'86 lui sforna Misery, che diventerà Misery non deve morire, è la storia di uno scrittore di romanzi famosi che viene tenuto prigioniero e torturato da una infermiera psicopatica che poi non è altro che la cocaina. Credevo che fossi buono, ma tu non sei buono, sei soltanto un altro schifoso bugiardo e io per un po' non voglio stare vicino a te. E non ti illudere che venga a cercarti qualcuno, né i dottori, né la tua gente, né la tua famiglia, perché non li ho mai chiamati. Nessuno sa che sei qui. E ti conviene sperare che non succeda niente a me, perché se muoio io, muori anche tu. Il film è bellissimo, con James Caan, una grandiosa Katie Bates, un film che fa epoca. E la cosa curiosa e terribilmente curiosa è che anche Stephen King passa attraverso questa trafila per la quale quando sei povero fai una vita quasi normale, poi diventi miliardario, cominci a bere, a drogarti e non riesci a sopportare la pressione del successo. È il momento in cui la moglie decide di intervenire, crea un gruppo di sostegno, di amici, di parenti e rovescia sul tappeto davanti a lui tutto quello che trova nel suo studio e sono sigarette, birre, cocaina, cucchiaini incrostati di sangue, Valium, Xanax, sciroppo per la tosse con la codeina e addirittura diversi tipi di colluttori che lui si beveva. Insomma, in quel momento Stephen si accorge che anche lui è stufo di essere schiavo di quella infermiera psicopatica. Non c'è dubbio, Annie Wilkes era la bamba, il mio problema di droga e anche la mia fan numero uno. Ero stufo di essere il suo schiavetto, ma temevo che non sarei stato più capace di scrivere. E poi, Dio mio, non voleva saperne di mollare. Insomma, il romanzo racconta la guerra che King intraprende contro la dipendenza dalle droghe nella vita reale. Annie non è altro che la cocaina. Stephen King finalmente si rende conto che deve uscire da quello stato di depressione e di angoscia per salvare il matrimonio, ma soprattutto per salvare se stesso. Inizia così un lungo cammino di recupero senza mai smettere di scrivere, e quella è la sua vera arma per vincere. E scrive molti romanzi e vedrà al cinema molti film tratti dalle sue opere. Il Miglio Verde, Stand by Me, Le Ali della Libertà. Nel settembre del 98 esce il romanzo Mucchio d'Ossa. Il suo personaggio è uno scrittore con una crisi professionale. 4 giorni dopo l'uscita del libro, King conversa con Jay Leno. Hai appena compiuto 51 anni. Hai festeggiato? No, non ho festeggiato. La mia visione sul compleanno è che per un po' vanno bene. Quando compi 7 anni ti regalano una bici, a 14 qualcuno ti regala un numero di Playboy, a 21 ti compri legalmente il tuo primo drink, a 50 anni invece la tua garanzia è scaduta. Niente più promesse o cose di questo tipo. Quindi mi limito a festeggiare un party di grazie a Dio non sono ancora morto. Adorabile. Invece che cosa mi dici dei compleanni degli altri? Non sarai mica un guastafeste ai compleanni dei bambini, spero. No, cerco di non esserlo. Dopotutto non puoi prendere tuo figlio in braccio e dirgli «Sai che c'è? Sei di un anno più vicino ai vermi. Non puoi farlo». Insomma, se lui vede i 50 anni come un'età pericolosa, non fa tempo a pensarci perché succede qualcosa che lo ferma per forza. È il 19 giugno 1999. La famiglia King si trova nella casa di villeggiatura che ha nel Maine occidentale. Ci sono i tre figli e il primo nipotino. Stephen accompagna il figlio all'aeroporto perché deve prendere un volo per tornare a New York. Poi torna a casa, dorme per un po', si prepara per la sua consueta passeggiata, perché lui ogni giorno fa 6 km di camminata attraverso i boschi vicini. E quel giorno sa che dovrà andare poi in serata a vedere un film, La figlia del generale, però decide lo stesso di uscire. Sono le 4 del pomeriggio, inizia a camminare lungo la strada statale. A un certo punto, vicino a una collina, vede una macchina, è una Dodge. Ero a tre quarti della salita quando Brian Smith, proprietario e conducente della Dodge, oltrepassò la cima del pendio. Non era sulla sua corsia, ma sul mio lato della banchina. Me ne resi conto in una frazione di secondo, abbastanza per pensare: oddio, forse sto per essere investito. Dopo un improvviso vuoto di memoria, mi ritrovo disteso a terra con lo sguardo fisso sul retro della monovolume, che è uscita di strada e leggermente inclinata. Il ricordo è molto chiaro e nitido, quasi un'istantanea. I fanalini posteriori della macchina sono coperti di polvere. Anche la targa e i finestrini di dietro sono sporchi. Osservo questi particolari senza avere la cognizione di essere stato vittima di un incidente, completamente inconsapevole di tutto. È soltanto un'istantanea. Diversi interventi chirurgici, un lungo periodo di riabilitazione, e lui capisce ancora una volta che lo può salvare solo la scrittura. Lavorare e scrivere sono l'unico punto di partenza per superare la crisi personale, e in questo caso sono anche la miglior terapia contro il dolore. Lui fa fatica a mettersi al computer, però riesce a portare a termine La chiappa sogni, il nuovo romanzo scritto tra la fine del 99 e la metà del 2000 con una penna stilografica a cartucce. Niente di che, io ho scritto tutti i miei libri a penna e non ho venduto però 500 milioni di copie. Nella sua vita, che lo ha visto da modesto insegnante a re del brivido, lui ha anche ricevuto la prestigiosa medaglia della National Book Foundation per il contributo dato alla letteratura americana. È una onorificenza controversa e criticata da chi lo ha sempre ritenuto uno scrittore popolare. Insomma, una vendita di libri, un successo di questo genere, a volte non vengono perdonate. Ecco il suo ironico discorso di accettazione. Le persone che protestano lo fanno perché sono spinte dalla loro passione per il libro, per la parola, per la pagina. In questo senso, siamo tutti fratelli e sorelle. E nessuno sa che per andare a ritirare quel premio nel 2003 lui rischia la vita, perché ha un polmone ancora non del tutto guarito dall'incidente che gli ha provocato tra l'altro anche una polmonite. Insomma, il giorno dopo si ricovera e tornerà in ospedale, ci rimarrà per 2 mesi. Ma Stephen King, l'omone alto, 1,93 m, così forte e così fragile, non ha mai smesso di inseguire le sue passioni. Tra queste c'è il baseball, c'è il rock, che lui ascolta anche mentre scrive. Ha comprato una stazione radio per avere la programmazione che gli piace. E poi suona la chitarra. Fa parte di una band composta da autori e critici musicali, si chiamano i Rock Bottom Remainders. E debuttano nel 92 per dei concerti di beneficenza. Questa era la storia di un uomo da 500 milioni di copie e un uomo che ha faticato a costruire la sua vita personale, che non è stata fortunata quanto quella professionale, ma che ha lasciato un segno nella letteratura e nella cinematografia. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala e di persone che hanno saputo lavorare sodo per dare un colpo d'ala dietro l'altro, come il nostro protagonista di oggi, Stephen King. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite di cui volete che noi si parli, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a cercarmi nei miei social o nei nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.